che solo il piacere giuro che sempre sarai bella. E Dio, io che sono la bellezza giuro di non lasciarti, e se manco di fede e importuno d'ora